Cina-Stati Uniti, storia di spie. Grecia-Turchia, storia di guerra. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. The United States is accusing China of illegal spying. The FBI claims an investigation revealed pictures of her in a type of uniform from the People's Liberation Army. Relations between Turkey and Greece are often measured by their interactions in the Eastern Mediterranean and Aegean Seas. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. 16:09, 6 secondi, in questo esatto istante, una nuova puntata di Nessun Luogo Lontano. La squadra però è sempre la stessa: Antonio Tali, Ilaria Sesana, Valentina Ternullo e Andrea Macchioni. E in regia Roberta Frisani. 349-238-6666, anche il numero è sempre lo stesso, lo conoscete ma ve lo ricordo ugualmente. Per fare cosa? Domande e commenti via WhatsApp e via SMS. Siamo su Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, e su Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Domande e commenti su che cosa? Si è aperto un nuovo capitolo molto molto intrigante dal punto di vista della narrazione, ve lo anticipo immediatamente. Una storia di spie legata a quel braccio di ferro tra Cina e Stati Uniti che continua a irrigidirsi sempre più, come se davvero fossimo agli albori, come sussurrano alcuni analisti, di una nuova guerra fredda, quella tra Stati Uniti e Cina. E poi Grecia e Turchia, perché l'ennesima provocazione da parte di Erdogan sta mettendo in allerta lo Stato Maggiore greco. Obiettivo sostanzialmente il controllo delle risorse energetiche e del Mediterraneo intero. Tutto questo in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Noi intanto sfogliamo i nostri dossier. Il primo arriva dal Sudan, è l'agenzia Dire a battere un'interessante notizia che in realtà poi è un'intervista, un approfondimento. Un'intervista a Aza Mohamed Ahmed, dirigente della Darfur Bar Association, un ONG impegnata per la pace e lo Stato di diritto nel Darfur, appunto. Questa attivista denuncia con particolare vigore e forza la presenza ancora una volta dei Janjaweed, che fanno tornare in mente gli orrori compiuti da queste milizie, da questi diavoli a cavallo all'epoca al soldo di Omar al-Bashir verso le minoranze del Darfur. Voi sapete che esiste un governo di transizione in questo momento in Sudan che mette insieme sia un'anima civile che un'anima militare, però secondo molti, e confermato anche dai nomi se andiamo a leggere le alte gerarchie militari, ci sono ancora troppe persone, troppi attori che ancora appartenevano a quel vecchio apparato oligarchico di cui era referente appunto Omar al-Bashir. E per questo cosa sta accadendo? Che proprio le stesse milizie Janjaweed, in realtà adesso legate sotto un altro grande cappello, un'altra etichetta, si stanno macchiando di vari crimini ancora una volta in Darfur, e c'è da giurare che quest'estate sarà caldissima anche per il Sudan. Così come si preannuncia caldissima l'agosto in Israele, perché secondo un'indiscrezione pubblicata dal quotidiano israeliano Haaretz, Benjamin Netanyahu starebbe valutando la possibilità di indire nuove elezioni a novembre. Pensate, sarebbe la quarta tornata elettorale in poco più di un anno e mezzo per Israele. Secondo il quotidiano, che va a citare fonti molto vicine al premier, la volontà di Netanyahu di non sottoporre a voto il bilancio relativo al 2020 sarebbe il segnale di questa intenzione. 2020 che dal punto di vista economico sarà disastroso anche per lo Stato ebraico, e quindi Netanyahu politicamente con grande spregiudicatezza coglierebbe la palla al balzo per chiedere agli israeliani di recarsi nuovamente a votare. E l'incertezza del governo si va a sommare un altro problema, perché Israele sta affrontando una nuova seconda ondata di contagi da coronavirus. Ieri nel paese è stata superata la soglia record di 2.000 contagi in 24 ore, totale dei contagiati 56.000, di cui 32.000 in fase attiva. E poi torniamo a parlare di Boko Haram, Nigeria, nord-est, stato del Borno, Maiduguri, perché 5 operatori umanitari che erano stati rapiti lo scorso 8 giugno sono stati uccisi dai loro rapitori, tutti appartenenti alle milizie di Boko Haram. Lavoravano per Azione contro la fame e International Rescue Committee, E purtroppo la morte dei cinque operatori è stata filmata. Le immagini dell'uccisione diffuse online, la BBC cita alcune fonti locali. Nel video una voce non identificata pronuncia un discorso agli infedeli, dicendo loro di rivolgersi a Dio prima che uno degli uomini armati ordini agli altri di sparare appunto ai prigionieri. Non è questa la prima volta in cui Boko Haram prende di mira anche chi fa del lavoro umanitario e del soccorso la propria ragione di vita. L'ennesima prova che Boko Haram è ancora, povera Nigeria, vivo e vitale. Infine in Ucraina, perché ucraini, russi e mediatori dell'OSCE hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco tra le forze governative e i separatisti filorussi. L'accordo è stato raggiunto mercoledì, il cessate il fuoco che nelle intenzioni sarà completo e onnicomprensivo inizierà a partire da lunedì 27 luglio, quindi attendiamo con grande trepidazione quella data in cui forse si metterà fine a un conflitto a bassa intensità che ha fatto tante, troppe vittime. Raggiungere un cessate il fuoco completo era precondizione fondamentale per avviare cosa? Un nuovo summit per risolvere la crisi ucraina. Si è fatto sentire il presidente di Kiev, Zelensky. Questa svolta è il risultato dell'efficace lavoro della delegazione ucraina con il supporto dei nostri partner internazionali a Berlino e a Parigi. E ancora una volta il dossier ucraino è finito quantomeno in Europa, anche se a trazione franco tedesca. Ricordiamo che il conflitto nell'est dell'Ucraina è scoppiato nel 2014 e è stato mettervi fine uno dei grandi obiettivi fin dall'inizio del mandato di Zelensky, fin dalla sua elezione. Per questo motivo il presidente ucraino evidentemente vuole in brevissimo tempo andare a riscuotere dal punto di vista politico quella che per lui sarebbe una grande vittoria. Infine Mario Paciolla, il consulente dell'ONU che è stato trovato morto in Colombia. Domani dedicheremo buona parte della puntata proprio a questa vicenda, lo ribadiamo ancora una volta, non deve diventare un caso Regeni 2, tra pochi giorni attesa la salma, l'autopsia è stata effettuata in Colombia, ancora non vi sono dettagli particolari, è stata indicata la causa della morte come suicidio, sostanzialmente non ci crede nessuno. Domani cercheremo di darvi più dettagli possibili per cercare di fare luce il più possibile e tenere desta l'attenzione su questo caso. E adesso con Roberta Frisani parliamo di questo braccio di ferro Stati Uniti-Cina. Intanto 349-238-6666, arrivano i primi messaggi da parte vostra, tra pochissimo naturalmente ve ne darò conto, non prima di aver dato il ben ritrovato qui in studio, di solito dall'altra parte del vetro, al nostro Antonio Tali. Antonio, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno Giampaolo a tutti gli ascoltatori. E buongiorno anche a Riccardo Barlam da New York, Sole 24 Ore. Riccardo, ben ritrovato. Buongiorno a tutti voi. Allora, Riccardo, hai ritrovato Stati Uniti piuttosto caldi, mettiamola così, stanno accadendo varie cose al di là del Covid e del coronavirus. Sta accadendo una vicenda che ha il sapore di una spy story, il tutto attorno al consolato di Houston e il tutto legato a presunti finti studenti. Perdonatemi il gioco di parole, ma la storia è piuttosto complicata, ma soprattutto è tinteggiata di parecchie ombre. Riccardo Barla, ma aiutaci a capire cosa sta accadendo. Allora, Houston è la città del Texas dove è concentrata un po' la farmaceutica e l'aerospaziale nel Texas, quindi ci sono diverse start-up e diverse aziende grandi come Lockheed Martin e Boeing che sono all'avanguardia in questo settore. E secondo l'accusa dell'amministrazione americana, del Dipartimento di Stato, il consolato cinese di Houston sarebbe stato un covo di spie, in cui ci sarebbero stati appunto le solite storie di spionaggio, di furti. In questo caso il furto sarebbe legato a delle ricerche legate al vaccino per il nuovo coronavirus. Sì, sì. È successo che martedì notte, il Dipartimento di Stato ha comunicato all'ambasciata cinese a Washington che chiudeva il consolato, dando 3 giorni di tempo, 72 ore, e lì lavorano 60 persone. E quindi è successa questa cosa abbastanza surreale nel downtown di Houston, in mezzo ai grattacieli dove c'è questo consolato, e una cosa si fa così in questi casi, lo fanno anche gli americani. I dipendenti della, del consolato hanno bruciato tutte le informazioni, i documenti, sì, anche le cose tipo i visti, certo, nel cortile del grattacielo, sì, in dei grandi contenitori metallici, tanto che sono arrivati la polizia, i vigili del fuoco, ma non potevano entrare perché c'è, certo, insomma, c'è tutta questa una scena molto teatrale, che vabbè, si sa, i consolati poi devono essere, nel caso di un'evacuazione così frettolosa, devono essere messi in sicurezza. Metterli in sicurezza significa cancellare ogni traccia o informazione sensibile. E vi faccio sentire intanto Trump che cosa ha detto proprio sulla chiusura dei consolati. As far as closing additional embassies, it's always possible. Chiudere i consolati è possibile. Avete visto cosa è successo? Pensavamo fosse scoppiato un incendio. Tutti dicevano: c'è un incendio, c'è un incendio. Invece stavano dando fuoco a carte e documenti. E vorrei proprio sapere su cosa fossero. Allora, proviamo a fare un passo indietro. Vi ricordate il gennaio scorso, dopo le schermaglie sui dazi commerciali, economia, il presidente statunitense Donald Trump diceva che le relazioni tra Cina e Stati Uniti erano al massimo da molto tempo a questa parte. Bene, se poi facciamo una fuga in avanti nella storia recente, andiamo velocemente fino a luglio, ecco cosa è successo negli ultimi mesi, mentre l'epidemia di Covid-19 si diffondeva dalla Cina al resto del mondo. La stampa controllata da Pechino, messa alle strette, ha cercato di alimentare teorie che smentissero l'origine cinese del virus. Poi la Cina ha espulso i giornalisti di giornali americani di primo piano, ricorderete, New York Times, Washington Post. Pechino ha promulgato la legge sulla sicurezza nazionale di Hong Kong, allo stesso tempo ha intensificato la presenza di navi militari nel Mar Cinese meridionale, è stata coinvolta in uno scontro al confine con l'India, nel quale sono morti almeno 26 soldati indiani e un numero imprecisato, come da sempre le notizie che arrivano da Pechino sono molto fumose, di soldati cinesi. Da parte loro, gli Stati Uniti non sono rimasti a guardare. Dopo aver ringraziato la Cina per gli sforzi contro il virus, Washington ha cambiato atteggiamento, ha promesso misure contro Pechino per la gestione carente dell'epidemia, ha sanzionato funzionari cinesi a causa della questione uigura, ha ridotto i visti di studenti cinesi sul territorio americano, ha chiuso i colloqui commerciali e infine due cittadini cinesi accusati di pirateria informatica alla ricerca degli ultimi sviluppi del vaccino, come ricordava Riccardo Barlam, e infine il consolato cinese a Houston che verrà chiuso. Donald Trump, Xi Jinping non si parlano da marzo, sostanzialmente siamo di fronte a quello che per molti è una nuova guerra fredda. Antonio Talia, è fuorviante questa etichetta di guerra fredda? C'è ancora un po' troppo al passato, oppure anche tu vedi tutti gli ingredienti per tratteggiarlo in questo modo? Credo di no, credo che non sia del tutto fuorviante, se teniamo in mente che, insomma, se davvero di nuova guerra fredda si tratterà di una guerra fredda appunto nuova e con caratteristiche completamente nuove. Però quello che sta succedendo a Houston e anche quello che sta succedendo a San Francisco, perché non dimentichiamo c'è un altro caso in corso, sì, che è in qualche modo collegato a quello di Houston, cioè è successo che, ed è venuta fuori solamente oggi la notizia, una ricercatrice cinese, Tang Zhuan, che aveva detto di non avere alcun legame con l'esercito popolare di liberazione, in realtà è stata scoperta provenire da un'università militare, era ovviamente una ricercatrice cinese negli Stati Uniti, è stata messa sotto inchiesta dall'FBI, nel lasso di tempo tra la conclusione dell'inchiesta e un eventuale arresto è fuggita e in questo momento, secondo i media americani, si troverebbe nascosta dentro il consolato cinese a San Francisco. Quindi questa è anche, insomma, offre il destro agli Stati Uniti per dire che, certo, i consolati cinesi danno rifugio a delle spie. Credo che però sia una questione che, appunto, è un braccio di ferro che si articola su più piani, e quello che stiamo vedendo in questo momento è quello tecnologico. C'erano giustamente le questioni legate al vaccino, come ricordava Riccardo Barlam, ma c'è in qualche modo un braccio di ferro tecnologico che si articola ancora su altri piani. Non dimentichiamo che lunedì scorso c'è stato un incontro molto importante. Il presidente Xi Jinping ha incontrato 25 CEO di grandi compagnie cinesi attive nel settore high tech e ha ripetuto a quella che è la punta di diamante della tecnologia cinese quello che aveva già detto di fronte al comitato permanente del Politburo, quindi ai vertici della politica cinese. Ebbene, che cosa ha detto? Ha detto nei prossimi anni avremo una situazione nella quale il mercato interno e il mercato estero si alimenteranno a vicenda, ma attenzione, d'ora in poi il perno dovrà diventare il mercato interno. E questo è un punto fermo molto molto importante. Con l'analisi, il commento di Antonio Talia, lo ricordo, profondo conoscitore e osservatore delle vicende cinesi, le ha vissute da dentro ben 7 anni a Pechino piuttosto recentemente. Voliamo direttamente a New York con Riccardo Barlam, Sole 24 Ore. E quest'altro mistero che aleggia sulla studentessa cinese che si sarebbe rifugiata invece al consolato di San Francisco, quest'altro mistero come viene raccontato, Riccardo, dai media statunitensi? C'è qualche novità? In realtà la cosa, ritornando un po' più con lo sguardo un po' più generale alla guerra fredda, sì, Cina-Stati Uniti, ci sono due piani da considerare, perché in questo momento negli Stati Uniti ci sono le elezioni fra 3 mesi, fra 100 giorni, sì, e quello che sta succedendo è che Trump sta aumentando la pressione. Di fatto l'amministrazione americana ha un atteggiamento contro la Cina per una sfida sulla leadership globale che c'è e continuerà anche se dovesse perdere le elezioni Trump con Biden. Questa, certo, cosa andrà avanti con, certo, altri toni, certo. Però quello che sta succedendo è una specie di ritorno di maccartismo negli Stati Uniti, perché in queste ore in cui la Cina c'è la caccia ai comunisti cinesi, alle spie o alla tecnologia o tutti i vari fronti aperti, i disordini che ci sono a Hong Kong, le esercitazioni militari nel mare cinese meridionale in questo momento, ci sono tanti, tanti fronti aperti, ma dall'altro lato i cinesi dicono che appunto si è tornati a una specie di maccartismo in cui c'è questa caccia al comunismo, nelle stesse ore in cui Trump rivendica la sua, come dire, il suo potere sulle città americane, e quindi manda l'esercito, manda le autorità federali per a Portland, a Chicago, per quelli che manifestano contro il razzismo. Lì c'è questa cosa di Portland in cui ci sono le mamme, le hanno chiamate, sì, le wall mom, in cui vanno con i fiori davanti ai federali che sparano i lacrimogeni. C'è questo aumento della paura negli Stati Uniti che fa un po' parte della strategia di Trump di aumentare la pressione, perché è dietro nei sondaggi. Però la guerra con la Cina, la guerra fredda con la Cina è nei fatti e andrà avanti. E paradossalmente quello che sta succedendo è che Trump aiuta l'imperialismo cinese, perché qualche osservatore fa notare che mai Xi Jinping ha avuto, non c'è stato nessun presidente prima di lui che ha avuto, prima fino a Mao Zedong, sì, che ha avuto così tanto potere. E ricordano per esempio questi scontri che ci sono stati al confine con l'India, sono morti 20 soldati, sì, indiani. E l'India, che è stata sempre vicina alla Cina, in questo momento invece si è avvicinata agli Stati Uniti, all'Australia, al Giappone. E tutta una serie di questioni che in qualche modo, come dire, parlano di un momento veramente complicato. Adesso bisognerà vedere anche cosa faranno i cinesi, perché loro vorrebbero chiudere un consolato. Qualcuno parla del consolato di Wuhan, ma qualcuno anche ipotizza la chiusura del consolato americano a Hong Kong, che sarebbe veramente un, sì, voler dar fuoco alle fiamme. Sì. E quindi, insomma, qualcuno dice, ci sono degli osservatori che paradossalmente dicono che i cinesi sarebbero contenti di una rielezione di Trump, perché questo aumento delle tensioni in qualche modo favorirebbe anche l'espansione di questo imperialismo cinese che abbiamo visto. Tu mi blocchi Huawei e io mi invento, certo, la fabbrica di chip, certo, e così via. E grazie ad Antonio Talia e Riccardo Barlam, stiamo volando virtualmente e in parte con la voce di Riccardo che arriva da New York, tra Pechino e New York, per raccontarvi una guerra che alcuni battezzano come guerra fredda. Forse a ben vedere siamo già nel gelo polare più spinto. E peraltro mi viene da fare un'osservazione, e mi rivolgo a entrambi i miei interlocutori, sia a Trump che a Xi Jinping conviene avere un dossier scottante come questa nuova gigantesca polarizzazione per non dover parlare e dare conto al mondo di quello che è stato il Covid-19, le colpe della Cina e la mala gestione, questo punto è evidente, senza tema di smentita, da parte dell'amministrazione statunitense. Ecco, quanto è sentita la competizione sul piano tecnologico? Mi rivolgo a Antonio Talia anche per aprire uno scenario, se vuoi, sull'opinione pubblica cinese. Ecco, quanto supporto popolare possiamo immaginare? Chiaramente è molto difficile da stimare rispetto a una figura così forte. Ricordava, rispetto a Mao Zedong, siamo lì come poteri, no? Storicamente incredibile la figura di Xi Jinping. Ecco, quanto supporto popolare può avere e quanto questo nuovo bipolarismo mondiale giova alla figura di Xi Jinping, però internamente? Antonio Taglia. Allora, penso che sia una situazione abbastanza complessa da definire. Da un lato sappiamo che i media cinesi sono ovviamente controllati in massima parte dal partito e quindi non è facile avere contezza di quelle siano gli umori che si agitano davvero nel paese. Dall'altro lato, sì, come dicevamo, appunto come diceva anche Riccardo Barla, ma Xi Jinping è senza dubbio il leader cinese più potente dai tempi di Mao Zedong, perché è riuscito ad accentrare intorno a sé tutta una serie di cariche che in precedenza venivano più o meno distribuite, quindi ovviamente pur trattandosi di un regime autoritario c'era una sorta di peso e contrappeso tra varie fasce del partito, tra varie fazioni. Adesso non è più così. Xi Jinping, ricordiamolo, è riuscito a annichilire la prassi per cui non si potevano fare più due mandati, quindi potrebbe teoricamente rimanere presidente a vita. Tuttavia però ci sono un po' di segnali minimi che ci dicono che forse ci sono delle minime fronde all'interno del partito che non sono contente di come sia stata gestita la crisi Covid-19. Ricordiamo anche che Xi Jinping ha fatto delle purghe davvero spietate all'interno del partito e quindi non sappiamo quanto queste eventuali fronde possano essere forti. Sì. Ma di sicuro ci sono dei segnali. Intanto dei segnali di rottura tra Xi Jinping e il suo primo ministro, Li Keqiang, che ultimamente sembrano sempre parlare in maniera sempre più distonica. E per quanto Li Keqiang non abbia una potenza paragonabile a quella, certo, di Xi Jinping, questo è sicuramente un segnale. E poi potrebbero esserci alcuni personaggi tra gli hardcore, tra quelli assolutamente legati a Xi Jinping, che in qualche modo stanno forse diventando più realisti del re e che stanno in qualche modo scatenando una campagna, da un lato anti-americana, dall'altro lato appunto per in qualche modo coprire la situazione e le responsabilità del Covid-19, che rischia di essere anche un boomerang. Sì. Intanto 349-238-6666 per i cinesi Biden, l'obamuccio, così in maniera molto dispregiativa un ascoltatore, sarebbe una bella scorciatoia. I cinesi lotteranno con le unghie e con i denti per non far rieleggere Trump, il primo presidente che si è accorto della loro pericolosità, così un altro ascoltatore. Riccardo, se riesci in uno slogan in 30 secondi a darci conto di com'è il sentimento, invece andiamo negli Stati Uniti, rispetto a questo, diciamo, l'hai definito neomaccartismo. Ecco, tutta la gigantesca comunità sino-americana potrebbe risentire di questo braccio di ferro, di questa nuova caccia alle streghe in qualche modo? Bah, già risente, diciamo, di fatto nella vita quotidiana, perché i cinesi sono state vietate negli Stati Uniti l'utilizzo di WeChat, che è una applicazione, certo, cinese molto popolare, certo, una specie di WhatsApp cinese, quindi loro non riescono a comunicare con i loro cari attraverso i telefonini come facevano fino, sì, a poco tempo fa, sì. Cosa dire? Trump parla di Biden in termini dispregiativi, lo chiama in mandarino Beijing Biden. In realtà non è proprio come dice l'ascoltatore, perché se Biden dovesse davvero vincere le elezioni, ammesso che ci riuscirà, sì, è tutto da vedere. Io non credo che finirà qui la guerra cinese per la leadership mondiale con la Cina, certo, assolutamente. Ci saranno altri toni, ma continuerà ancora, perché sono in ballo i primati tecnologici, i primati, l'economia del futuro, certo, il controllo geopolitico dei territori, quindi non sarà così facile. Al contrario, invece, i cinesi da questo aumento di tensioni hanno maggior ragione per aumentare la loro presa imperialista. Io parlando un po' dei conti rispetto alla crisi del coronavirus, allora ieri la Cina ha avuto 22 nuovi casi, gli Stati Uniti da 8 giorni hanno più di 63.000 casi, e così l'economia cinese ha ripreso ad andare, quella americana è ancora in totale tempesta, sì, e questo è il vero nodo che alla fine deciderà l'elezione americana, perché Trump, se non riuscirà a scovare un vaccino o a uscirne fuori da questa crisi economica, certo, veramente al di là dei discorsi ideologici, che è molto facile fare, ma se perdi il lavoro, se davvero... Chiarissimo, chiarissimo, è quella... Se disoccupazione, certo, è quella la molla. Quello diventa il termometro e diventa anche la molla politica. Grazie mille Riccardo Barlan per essere stato con noi, grazie mille Antonio Talia. A proposito di economia, sentiamo le borse e poi la seconda pagina di Nessun Luogo. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Nessun Luogo. Nessun Luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Nessun Luogo Lontano va a sfogliare il racconto di quest'oggi, passa alla seconda pagina. Andiamo nel Mediterraneo, perché questo forse è il vero campo di battaglia. Di quale battaglia, di quale guerra? Quella fra Turchia e Grecia, anche se un ascoltatore, prevenendo già questa seconda pagina, ha scritto in realtà qua il braccio di ferro è tra Turchia e Unione Europea, perché la Grecia fa parte dell'Unione Europea, i confini in ballo sono quelli. Cercheremo di capire meglio cosa sta accadendo. L'ultimo colpo sparato da Erdogan riguarda la missione di una nuova nave di ricerca, accompagnata come sempre da navi da guerra, che sta andando a pestare i piedi ancora una volta ad Atene. Cosa sta accadendo? Tra pochissimo con Marta Ottaviani, la penna di Avvenire Stampa e voce anche qui a Radio 24. Marta, buongiorno, ben ritrovata. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Proveremo a fare due bracciate in quel tratto di mare mediterraneo così caldo in questo momento. Prima però apriamo una piccolissima parentesi su quella che è la querela ormai gigantesca su Santa Sofia, la basilica, moschea, basilica e poi museo. Erdogan ha messo la quinta e diciamo che in maniera molto simbolica ha fatto capire che l'islamizzazione e l'antisecolarizzazione del paese ormai è un processo inevitabile. Vi faccio sentire alcuni stralci di un discorso pronunciato pochissimo tempo fa. Sulla base della decisione del Tribunale, con un decreto presidenziale, abbiamo fatto in modo che Santa Sofia tornasse a essere una moschea. Con questo, dopo un vuoto di 86 anni, tornerà ad essere una moschea, come previsto dalla pia fondazione di Mehmet il Conquistatore. Come tutte le nostre moschee, le porte di Santa Sofia saranno aperte a tutti, cittadini e stranieri, musulmani e non musulmani. Essendo un patrimonio dell'umanità, Santa Sofia continuerà ad accogliere chiunque nel suo nuovo status. Marta Ottaviani, provocazione oppure ennesimo passo di una che si va a incorporare in una strategia ben consolidata ed è molto importante per i musulmani turchi, secondo te? Ma secondo me questa, la portata simbolica e il riverbero di questa riconversione di Santa Sofia come moschea all'estero è stata molto sottovalutata da tanti analisti. Io penso che Erdogan abbia proprio voluto, come si suol dire, calare l'asso, dare, manifestarsi, presentarsi come il nuovo conquistatore di Santa Sofia. Non ci dimentichiamo che non solo dai musulmani turchi, ma anche dai musulmani legati ai Fratelli Musulmani, per l'appunto, sparsi nei diversi paesi d'Europa, il fatto che Santa Sofia fosse un museo, quindi fosse stata sottratta al culto islamico come a tutti gli altri da Ataturk, era quasi uno sfregio alla conquista della città da parte degli ottomani nel 1453, ed Erdogan in questo modo si è accreditato davvero come il secondo Maometto il Conquistatore. E se pensiamo che comunque Maometto il Conquistatore è stato uno dei nemici più acermi e anche uno dei sultani più temuti dall'Occidente, beh, ecco, direi che ci sono davvero tutti gli estremi per preoccuparci, soprattutto per quello che Erdogan sta facendo proprio adesso nelle acque al largo della sua tra Turchia e Grecia. E tra pochissimo, dicevo, ci andremo in quelle acque. È utile però ricapitolare che cosa? Beh, la lunga storia di tensioni, relazioni davvero complicatissime fra Grecia e Turchia. Le ascoltiamo insieme. Le tensioni tra Grecia e Turchia affondano le radici nei primi decenni del Novecento. Tra il 1897 e il 1922 vengono combattute quattro guerre che portano alla formazione dei due stati nazionali nati sulle ceneri dell'impero ottomano. Guerre che hanno provocato migliaia di morti, massacri tra i civili e spostamenti forzati per milioni di persone. A questa lunga fase di conflitti segue un riavvicinamento tra i due paesi a opera dei rispettivi leader, Kemal Atatürk e Eleftherios Venizelos, suggellato dall'ingresso di Grecia e Turchia nella NATO. Ma a partire dagli anni 50 le relazioni tra Grecia e Turchia riprendono a peggiorare. Oggetto della disputa è l'isola di Cipro, che vuole l'unificazione con la Grecia. La tensione sull'isola cresce per anni, culminata con l'invasione del nord dell'isola da parte dell'esercito turco nel 1974, cui è seguita l'espulsione dei greci dai territori controllati da Ankara. Altro tema caldo riguarda i diritti di sovranità sul mare Egeo, oltre ai confini marittimi e l'ampiezza dello spazio aereo. A partire dagli anni 70, con l'avvio delle prime prospezioni per la ricerca di gas e petrolio, la tensione ha continuato a crescere fino ai giorni nostri. Negli ultimi mesi, infatti, Ankara ha inviato le sue navi in acque greche e cipriote per procedere con la ricerca di gas e petrolio. Sebbene entrambi i paesi facciano parte della NATO, in diverse occasioni i rispettivi eserciti sono arrivati allo scontro a fuoco. Nel dicembre 1986, ad esempio, un incidente alla frontiera lungo il fiume Evros ha portato alla morte di un soldato greco e due turchi. Il tentato e fallito colpo di Stato contro il presidente Erdogan nel luglio del 2016 ha aggiunto ulteriori motivi di tensione tra i due paesi. Tra il 2016 e il 2018, infatti, più di 2.000 cittadini turchi hanno chiesto asilo ad Atene. Tra loro, persone vicine a Fethullah Gulen, ma anche docenti universitari, attivisti di sinistra, curdi e persino 8 soldati fuggiti attraverso il mare Egeo all'indomani del tentato golpe. E intanto, come ricorda un ascoltatore al 349-238-6666, i greci stanno urlando polemos, cioè guerra. E fra l'altro un lancio di AGI, Agenzia Giornalistica Italia, ricordava proprio questo. Il termine, l'hashtag, è uno tra i più diffusi degli account in Grecia. Non è un caso che Mitsotakis, il premier ellenico, ha detto che Atene è pronta a difendere il proprio territorio di fronte all'ultima provocazione di Erdogan. Di che provocazione si tratta? Lo dicevamo prima brevemente. Martedì scorso è stata inviata la nave Oruç Reis, poi Marta Ottaviani mi conforterà nella mia pessima pronuncia del turco, a effettuare cosa? Ricerche idrografiche nelle acque dell'isola greca di Castello Rizzo. Bisogna fare un passo indietro. Vi ricordate l'accordo stretto da Erdogan con il governo di Sarraj? Sostanzialmente la Turchia, di comune accordo con quel pezzo adesso un po' più grande di Libia, si è assicurato un vasto corridoio all'interno del Mediterraneo, che però va a impattare anche sulle acque di pertinenza greca. Ne ha fatte le spese Saipem qualche tempo fa e ne fanno le spese anche e soprattutto le casse potenzialmente di Atene, perché vi sono ricchi giacimenti di gas sui quali la Turchia dice: attenzione, questo è uso esclusivo nostro in virtù di questi accordi, e Atene ovviamente pesta i piedi, o anzi sbatte i pugni sul tavolo. Marta Ottaviani, c'è solo una questione di risorse energetiche o ancora una volta c'è un disegno molto molto più vasto che non riusciamo bene a intravedere da parte di Erdogan? Diciamo che la questione delle risorse energetiche è sicuramente quella più importante dal punto di vista economico, ma c'è un disegno sicuramente neoimperiale della Turchia. Castellorizzo, non ce lo dimentichiamo, fa parte di quelle isole che si trovano di fronte alla costa turca, ma che sono di nazionalità greca, che però Ankara rivendica come turche, che vuole, di cui vuole ridiscutere la nazionalità il prossimo 2023, quando verrà ridiscusse le clausole del Trattato di Losanna. Questo è un grandissimo cavallo di battaglia del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Sì. C'è quindi una parte di Grecia che la Turchia vuole vedere tornare sotto il suo dominio, come ai tempi dell'impero ottomano, e c'è un paese che sta diventando sempre più esuberante, ma ormai possiamo dire tranquillamente arrogante, la regione di Mediterranea, a scapito direi non solo dell'Unione Europea ma di altri due paesi come Egitto e Israele, che guardano con grandissima preoccupazione quello che la Turchia sta facendo in Siria e in Libia. Certo, tu giustamente certo. citavi il fatto dell'accordo con il governo di al-Sarraj. Non ci dimentichiamo che questo accordo è arrivato dopo un clamoroso voltafaccia, perché fino al 26 novembre scorso la Turchia di Recep Tayyip Erdogan sosteneva la parte opposta a quella di al-Sarraj, quindi la parte di Khalifa Haftar, l'uomo forte della Cirenaica. Sì. Questo per farvi capire con quanto audace, ma anche quanto pericolosa possa essere la politica estera turca, proprio perché è giocata sul brevissimo termine per quanto riguarda le alleanze, ma che invece ha dei termini, dei punti molto fissi e sui quali Erdogan non intende indietreggiare per quel che concerne quello che la Turchia vuol portare a casa. La Grecia è solo la prima vittima, sicuramente anche per vicinanza geografica e per motivi storici, della furia di Ankara, ma ce ne saranno molte altre. Marta Toviani, stai con noi perché hai citato Israele e Egitto. Mi piacerebbe approfondire questo aspetto, in particolare con l'Egitto, perché ci potrebbe essere un'inedita alleanza proprio in funzione anti-turca. Andiamo a sentire la viabilità e poi l'ultima pagina di Nessun Luogo. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ecco Frisani, per un attimo ho tremato, pensavo avessi sbagliato il programma. Allora, l'ultima pagina di Nessun Luogo è lontano, i toni si fanno un po' più duri, un po' più accesi, perché ci sono due capitoli che vorremmo passare in rassegna con Marta Ottaviani, Radio 24, ma anche Stampa e Avvenire, esperta di Grecia e di Turchia, e proprio di questa dannatissima relazione stiamo cercando di darvi conto in questa ultima pagina di Nessun Luogo è lontano. Gentili ascoltatrici e ascoltatori, perché le provocazioni da parte di Ankara sono state tantissime. L'ultima, una nave per ricerche idrografiche che mira in quel braccio di mare che sostanzialmente Ankara e Tripoli si sono autorivendicate in mezzo al Mediterraneo, a trovare nuovi giacimenti di gas. A fare le spese potrebbero essere tanti attori, tra cui anche l'Italia, che di concerto con gli altri paesi dell'Europa stanno cercando anch'essi di sfruttare le ricchezze del Mar Mediterraneo. Capitolo Egitto, perché lo citavi prima Marta Ottaviani, l'Egitto potrebbe in funzione antiturca, lo ricordiamo, in Libia sono appoggiano due fazioni opposte, potrebbe allearsi proprio con Atene in funzione anti-turca. Detto ciò, cosa potrebbe fare Fatah al-Sisi con il governo greco in funzione antiturca? No, anzitutto è molto interessante notare che in questa strana alleanza potrebbe intervenire anche la Francia. Macron e Mitsotakis si sono sentiti molte volte nelle scorse settimane e la Francia è molto irritata per l'atteggiamento che Ankara sta tenendo nel Mar Mediterraneo, anche perché, non ce lo dimentichiamo, le licenze di esplorazione dei fondali sono in parte appaltate all'italiana Eni e in parte appaltate alla francese Total, quindi la Francia si è già vista portare via in Libia delle posizioni a cui, insomma, Parigi ambiva da tempo, da parte della Turchia. Difficilmente accetterà di fare la stessa fine anche al largo di Cipro, quindi ci potrebbe proprio essere questa triangolazione tra Atene, Parigi e il Cairo, dove, ricordiamo, l'Egitto ha più di un motivo per essere molto irritato con la Turchia. Uno, perché Ankara vuole scalzare l'Egitto dal ruolo di regional player che il Cairo ha sempre storicamente tenuto nella regione mediterranea. E due, perché Erdogan è l'uomo dei fratelli musulmani egiziani in Turchia e si sta accreditando come leader islamico per tutto l'Islam sunnita. E questo sicuramente per il presidente egiziano al-Sisi, che, ricordiamolo, è appoggiato comunque da gruppi salafiti, è tutto, che sono contrapposti ai fratelli musulmani, è tutto fuorché una buona notizia. Va poi notata un'altra cosa: diciamo che il premier Mitsotakis sta cercando di giocare le sue carte al meglio anche sull'altra sponda, ossia con la Cina. La Cina ha degli investimenti molto importanti infrastrutturali in Grecia, sì. E certamente sì. Pechino è l'ultima che vuole vedere degenerare i rapporti tra i due paesi, perché anche la Turchia potrebbe entrare nella cosiddetta Belt Road Initiative, quindi questa super ferrovia che verrà a costituire la nuova via della seta, e per questo investimento, dove Pechino ha investito decine di miliardi di dollari, c'è bisogno di una situazione geopolitica il più stabile possibile. State ascoltando la voce, l'analisi, il commento di Marta Ottaviani, esperta di Grecia e di Turchia, per cercare di capire fino a che punto può spingersi questo secondo braccio di ferro che vi stiamo raccontando in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, quello fra Atene e ad Ankara. E un po' di messaggi di un ascoltatore molto attento, devo dire, mi dà il destro per proseguire, fare un passo in avanti nella discussione. Chi in Europa avrà la volontà e la forza per andare a vedere il bluff di Erdogan? Nessuno è disposto a accoglierlo nell'Unione Europea per tacitarlo, ma neanche a spingerlo definitivamente fra le braccia di Putin. E poi, attenzione, le tensioni con l'Egitto sono figlie del confronto per l'egemonia sunnita con le monarchie del Golfo. Chi sceglieranno gli americani? E qua ci spostiamo sulla Libia. Appoggeranno i sauditi, quindi al-Sisi, per tenersi buono il Golfo, oppure i turchi a vantaggio del Mar Nero e Caucaso? Io proprio recentemente vi davo conto del rinnovato interesse statunitense nel settore libico. Io ho l'impressione, ma opinione personalissima, quindi prendetela con le pinze, che questa amministrazione non abbia la lungimiranza, quella statunitense, la lungimiranza necessaria per guardare così in avanti. Ho l'impressione che gli Stati Uniti siano particolarmente irritati dalla presenza russa in territorio libico, e tant'è. Gli Stati Uniti spesso hanno peccato di lungimiranza sui grandi quadranti internazionali, hanno armato i loro successivi nemici, insomma è inutile fare la cronistoria. Torno però invece con Marta Ottaviani, approfitto della tua presenza, Marta. Qualche mese fa Erdogan, non lui in persona, ma la Turchia, ha chiesto a gran voce che si rapisse in qualche modo il colloquio con l'Unione Europea. Ecco, queste mosse sembrano far evaporare totalmente quella strada, o mi sbaglio? Oppure fai la voce grossa, così ti siedi al tavolo delle trattative con la pistola pronta, diciamo? Ma io ho comunque l'impressione che l'Unione Europea sia l'ultimo dei problemi di Recep Tayyip Erdogan, anche perché non è sicuramente, come faceva notare l'ascoltatore con la sì. sua domanda, non è sicuramente un'entità che con Erdogan si è confrontata in maniera secca negli ultimi anni, anzi direi che gliel'abbiamo fatte passare tutte, a partire dall'accordo sui migranti sì. ad arrivare al suo rinnovo con altri 3 miliardi di euro che Erdogan otterrà sostanzialmente per tenersi i migranti sul suo suolo nazionale. Io ritengo che Erdogan in questo momento attenda con non ansia, però sicuramente con grande attenzione l'esito del voto americano del prossimo 3 novembre, perché comunque questa presidenza Trump, se si eccettua lo scherzo che gli ha fatto nell'agosto 2017 con la crisi della valuta, è comunque una presidenza che con la Turchia è piuttosto indulgente. Trump ed Erdogan hanno comunque un buon rapporto personale, cosa che invece non si può dire per esempio tra Erdogan e Putin, sì, con certo, la Russia che della certo. Turchia, soprattutto dopo l'esplosione della Turchia in Libia, si fida sempre meno. Certo, una presidenza nelle mani di Joe Biden potrebbe ridefinire molto le carte del Mediterraneo, e per questo insomma sarà particolarmente importante seguire non solo come andrà la sfida del 3 novembre, ma se certo. Biden avrà la meglio su Donald Trump, anche vedere come vorrà impostare la propria politica internazionale nel Mediterraneo, certo. dopo due presidenti che, possiamo dirlo, hanno sicuramente portato più danni che benefici alla regione. Ma sicuramente il grande disimpegno, soprattutto, iniziato già con l'amministrazione Obama e poi proseguito con quello di Trump, a volte un po' scomposto, lo abbiamo ribadito tante volte, hanno creato dei vacuum, dei vuoti poi riempiti da attori magari non particolarmente graditi alle porte d'Europa. Beh, è incredibile ancora una volta come, anche parlando di Mediterraneo, di Siria, di Libia, come a tante altre volte in Somalia e Afghanistan, il destino del mondo pare incredibilmente reggersi su quello che accadrà il 3 novembre. Intanto il nostro, il vostro, il mio destino si regge su una parola, quella che sentirete tra un secondo. Ode! Che significa saluti, il commiato e ringraziamenti a Marta Ottaviani, a tutti voi per essere stati all'ascolto, alla squadra di Nessun Luogo. L'appuntamento è domani. Ultima puntata è ore 16, vi aspetto.